Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizi, benvenuti all'appuntamento con la cronaca, le eccellenze, le curiosità, ma anche i problemi del nostro paese. Insomma, le storie che ci parlano dell'Italia in controluce. Parlare di scuola ci piace particolarmente perché è una cosa molto importante, forse una delle più importanti per la vita di ognuno di noi che l'ha frequentata o per chi la sta vivendo adesso. Conosci la scuola e capisci il tempo che vivi, potremmo dire. E così questa storia ci parla di un esperimento, le scuole bilingue. Cristina Carpinelli. Valentina, come please. Thank you, Ludovica. Get the paintbrush. Where's the paintbrush? Get it? Fantastic. Take it to the color and hit it. Noi effettivamente siamo due delle sei scuole italiane che fanno questa sperimentazione al 1° settembre con i docenti formati, i nostri docenti italiani formati da 3 anni, perché è una roba lunga che stiamo costruendo, e che sono a pieno titolo capaci di fare l'insegnamento della lingua, dei contenuti della scuola italiana in inglese. Questa che avete appena sentito è la preside Zanorali. La sua scuola, la Diaz di via Crocefisso a Milano, è una delle 6 scuole elementari in cui dal 13 settembre si insegneranno 3 materie in inglese che con ogni probabilità saranno scienze, arte e geografia. Ogni scuola potrà sostituire le materie consigliate con altre, escluse italiano, storia e matematica. È un progetto pubblico che arriva come una ventata d'ossigeno in una stagione in cui la scuola sembra davvero sull'orlo del collasso. È un progetto, questo del bilinguismo, che parte 3 anni fa, quando si comincia a fare selezione tra gli insegnanti e poi formazione. Ancora la preside Zanorali. Ci è voluto tanto tempo per poterlo mettere a fuoco. Noi siamo gemellati con le scuole spagnole che da 15 anni fanno questa sperimentazione e coi quali noi ci manteniamo a contatto viaggiando noi in Spagna e loro in Italia, perché costruiamo tutto, libri di testo, costruiamo le unità, è una formazione molto particolare perché tiene conto della tradizione, dei contenuti ottimali della scuola italiana in inglese, per cui i testi non esistono inglesi sulla lingua italiana, per cui dobbiamo costruirli noi e stiamo facendo questo. Per i genitori iscritti alle nuove sezioni bilingue non è prevista alcuna spesa ulteriore rispetto a una normale classe di scuola statale, ci racconta Gisella Langé, responsabile lingue della direzione scolastica in regione Lombardia. Il progetto nasce grazie alla collaborazione che da anni abbiamo con il British Council, sia nazionale sia di Milano. Da tempo era stato fatto uno studio di fattibilità per capire se in alcune regioni italiane potesse essere sviluppato il modello che è già stato sperimentato in Spagna, e questo studio di fattibilità aveva coinvolto nel 2008-2009 altre 2 regioni, la Sardegna e l'Umbria. Quando poi si è trattato di definire le varie modalità operative, le altre 2 regioni non sono state in grado di portare avanti quanto nello studio di fattibilità era stato messo a fuoco. Siamo partiti noi. Il progetto non è per niente facile perché richiede grossissime competenze da parte dei docenti della scuola e soprattutto non vuole attivare dei corsi privilegiati o delle sezioni privilegiate, ma vuole che l'offerta sia al massimo numero delle classi presenti nella stessa scuola. Per poter insegnare in inglese matematica, arte, geografia ai propri alunni, le maestre hanno dovuto dunque dimostrare di partire da un buon livello di inglese e poi da lì hanno dovuto partecipare ad oltre 300 ore di lezione al British Council, lezioni svoltesi fuori dall'orario di lavoro, a dimostrazione che il nostro corpo docenti, se stimolato, risponde con entusiasmo. Ancora Gisella Langé. Quello che è emersa è la presenza di risorse umane che si sono dedicate senza essere, diciamo così, retribuite a queste iniziative. È un progetto comunque che costa, tra virgolette, abbastanza proprio in termini di formazione del personale, perché nella scuola tutto il personale deve raggiungere una competenza linguistica alta. Normalmente per la scuola elementare si chiede un livello di preparazione DB1, che è il terzo livello di una scala di 6 livelli. Per questo progetto viene richiesto il livello B2, che è il quarto livello della scala di competenza proposta per le lingue dal Consiglio d'Europa. 2 dei 6 istituti dove i bambini faranno lezioni e compiti in inglese sono a Milano. La scuola Diaz in via Crocefisso e via Sant'Orsola avrà 5 sezioni bilingue e altre 4 saranno attivate alle elementari di Viale Brianza e via Venini. Le altre scuole coinvolte sono la Copernico di Corsico, la scuola di via Cialdini a Meda, la Fermi di Villa Santa e un istituto comprensivo a Como. È tutto per Italia in Controluce, vi ricordo che potete scriverci controluce@radio24.it, siamo anche su Facebook Radio 24 Italia in Controluce. Ci sentiamo oggi alle 13:30, buona giornata.